Son maestro di follia, vivo la mia vita sulla fune che separa la prigione della mente dalla fantasia. Il mio futuro è nel presente ed ogni giorno allegramente io cammino sul confine immaginario dell'orizzonte mentre voi, signori spettatori, mi guardate dalla strada, cuori appesi ad un sospiro per paura che io cada, ma il mio equilibrio è in cielo come i sogni dei poeti, mai potrei vivere come voi che avete sempre la certezza della terra sotto i piedi. Pazzia e vola sulla corda la mia mente a rincorrere i pensieri, ad inseguire l'utopia di catturare almeno un oggi prima che diventi ieri e provare a far danzare il tempo. Perché mi ha fatto battere nel petto il cuore di un equilibrio.